Minchia! Mincia, voglio vedervi sensuali. Mincia, voglio vedervi muy sexy. Sexy, voglio vedervi muy sexy. Sexy, e questo ballo di gruppo se ne va a cagare, perché questa è una mincia. Per ballare questa è una mincia. Para gozare sto è una mincia. Para meniere sto è una mincia. E le persone lo ballano così, così, così, così, così, così. Tutti quanti una mano in la cabeza. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Mincia, mincia. Voglio vedervi sensuali, mincia. Voglio vedervi muy sexy, sexy. Voglio vedervi muy sexy, sexy. E questo ballo di gruppo se ne va a cagare, perché questa è una mincia. Per ballare questa è una mincia. Para gozar esto es una mincia. Todas las mujeres lo bailan mincia. Todos los hombres lo bailan mincia. Todas las radios lo ponen mincia. Las discotecas lo ponen mincia. Toda la gente lo bailan mincia. Pero el descuento se acaba, acaba, acaba, acaba, acaba, acaba.